get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte e ben ritrovate. Quella che sta per iniziare è la nostra 222esima trasmissione. E sarà una trasmissione un po' diversa dalle nostre solite programmazioni. Questo perché abbiamo deciso di limitare al minimo le nostre parole e di lasciare invece molto spazio a quelle pronunciate durante la nostra ultima iniziativa programmata presso la Casa Internazionale delle Donne. Abbiamo deciso infatti di celebrare il 25 aprile organizzando una 2 giorni all'interno dei quali fosse possibile osservare la mostra fotografica sul campo di sterminio per donne di Ravensbrück ed ascoltare le parole della deportata e sopravvissuta alla Shoah che gentilmente ha accettato di venire alla nostra iniziativa. Il nostro intento stasera è dunque quello di farvi vivere le stesse emozioni forti che noi stesse abbiamo provato ascoltando le parole di Graziella Bertozzo, che è ideatrice e curatrice della mostra, e anche l'intervento di Mirella Laurenzi Stanzione, che dentro quel campo di sterminio ha vissuto. Per questa sera abbiamo preso soltanto questi 2 interventi perché erano significativi della scelta che avevamo fatto relativa alla volontà di celebrare la liberazione parlando di donne e parlando di ciò che le donne avevano subito. Ci siamo ripromesse però, anche nella prossima nostra trasmissione, di proseguire con l'ascolto anche delle altre 2 donne che hanno dato il loro significativo contributo all'iniziativa. E sto parlando della dottoressa Monica Cristina Storini e della dottoressa Antonella Petricone. Insieme a loro abbiamo potuto contestualizzare gli avvenimenti legati alla Shoah, andando ad individuare quei meccanismi legati al sessismo che così prepotentemente legano quel passato al genocidio che ancora oggi tutte le donne subiscono. Bene, io mi fermo qui. E faccio partire le registrazioni e inizieremo ascoltando la breve presentazione che Rosina del CLR, che avete sentito parlare assolutamente molte volte da questi microfoni. Dicevo, la presentazione che Rosina ha fatto nella serata di apertura della 2 giorni. Allora, buon ascolto e ci sentiamo magari più avanti. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere intervenute qui stasera. Questo incontro ci porterà a parlare delle donne che sono state deportate nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Entrando avrete potuto osservare la mostra che gentilmente Graziella Bertozzo, che è qui nella prima della fila, portato qui a Roma e ha portato questa mostra qui per condividerla con noi, e una mostra che lei ha curato insieme alle compagne e compagni dell'Azione Gay e Lesbica, e questa mostra è diciamo poi il motore di questa 2 giorni antifascista che teniamo a Roma ed è il modo in cui noi intendiamo celebrare questo 25 aprile. E la festa della liberazione che noi intendiamo in un senso più ampio come libertà, insomma, libertà è un concetto si può dire anche abbastanza astratto, ma in teoria abbiamo tutte più o meno in testa il suo significato. Moltissime e moltissimi credono di essere liberi, quando sanno poi accorgersi che in realtà le prigioni sono di tanti tipi, ci sono le religioni con le spade, con le celle, con il filo spinato, ci sono altre religioni con le quali molte di noi, delle quali molti di noi hanno sentito parlare, tutti sanno perché appunto le hanno vissuto sulla propria pelle, sono religioni più, diciamo, più aeree, religioni che non hanno muratura, che non hanno celle, non hanno secondini, sono religioni dell'oppressione, del condizionamento. Mi piace dire che questa mostra, la mostra che avete potuto vedere, ci ricorda di ricordare, e cioè ci ricorda di ricordare quelle donne che sono state ingoiate dalla barbarie nazista, ma sono state anche ingoiate dalla differenza del mondo, che sono scomparse, sono sparite. E sono donne che avrebbero potuto dirsi, che avrebbero potuto raccontarsi se fossero tornate. Purtroppo sappiamo benissimo che la maggioranza di loro non è tornata. Sono donne che avrebbero potuto vivere se non fossero state appunto spezzate le loro esistenze. E sono donne, naturalmente, sono donne come noi, sono donne come noi. Questa è, secondo noi, questo è il filo che ci lega indissolubilmente a queste donne, cioè il filo dell'appartenenza di genere. Questo filo, proprio questo filo ci obbliga al ricordo. Ovviamente non dimentichiamo che l'Olocausto, questa tragedia indefinibile, non veramente le parole, è una tragedia che ha attraversato indistintamente la vita di uomini e donne, perché lo sappiamo perfettamente che il dolore non ha genere, è un corpo che è stato umiliato, offeso, violentato, distrutto, è un corpo che ha subito la violenza di qualunque genere, ci diminuisce tutti e tutti indistintamente. Però stasera, come anche il nostro costume, noi siamo al coordinamento lesbico-romano del Centro Femminista Separatista, quindi abbiamo lavorato moltissimo su queste cose, questa sera, dicevo, vogliamo spingere il nostro sguardo un po' più in là, quindi vogliamo parlare proprio di donne. Parliamo di donne che spesso non hanno voce, anzi direi quasi sempre. Queste donne, le donne dell'Olocausto, sono partite per quell'inferno personale e anche collettivo, non avendo voce, e sono spesso tornate non avendo comunque voce. Quindi la loro esperienza all'interno dei campi spesso, diciamo, si è perduta nell'indistinto del neutro di genere, quindi si parla molto di deportati, si parla molto di sopravvissuti, si parla molto di testimoni, anche nel linguaggio, proprio nella parola detta, le donne scompaiono, e così come avviene per la storia generalmente, anche nella memoria queste donne sono scomparse. E noi crediamo che quella storia perduta debba essere per noi una chiave di lettura proprio per questo discorso dell'appartenenza di genere. Noi sappiamo che l'Olocausto è terminato, l'Olocausto, quello con la O maiuscola, quello di cui tutti parlano, ma sappiamo benissimo che ci sono moltissime violenze, moltissime tragedie che invece attraversano la vita attuale delle donne. Quel tipo di violenza che le donne hanno subito, per noi si lega comunque indissolubilmente alle violenze che oggi le donne subiscono, già che la nostra attualità, nel mondo. E quindi si lega alle violenze di genere, si lega ai femminicidi, che possono essere quelli di città attuale, ma sono naturalmente anche quelli che avvengono nelle nostre famiglie, nelle nostre case, in Occidente. E si lega agli stupri etnici. Bene hanno fatto le compagne e i compagni di azione lesbiche a definire l'Olocausto uno stupro di massa, codificante, uno stupro di massa delle donne. Si lega quindi una parola a quello che noi definiamo il genocidio, che viene perpetrato nel mondo, ad ogni latitudine, in ogni nazione, sotto gli occhi spesso indifferenti dei governi locali, delle persone nazionali, delle religioni, eccetera, eccetera. Noi sappiamo perfettamente, lo dicono le statistiche, non lo diciamo noi, sono le statistiche che ci raccontano storie terrificanti di donne che sono perdute, di donne che non hanno un nome, che sono soltanto un numero. Una volta che hai letto quella statistica, alla fine quelle donne non sono più neanche quel numero, sono completamente scomparse, volatilizzate. E allora noi crediamo che la nostra resistenza debba essere appunto memoria, una memoria condivisa e trasmessa, quindi una memoria che circoli fra le donne, che serve sì da monito per le generazioni future, come solitamente si dice, ma anche che serva invece per le generazioni attuali, ma che soprattutto sia una memoria che ci serva a costruire una genealogia e una storia che è comune a tutte quante noi, che è la nostra storia, la storia di noi donne. perché la cancellazione sistematica delle donne ha radici molto antiche, ma appunto sì, arrivano fino ai giorni nostri. Questa è una cosa che noi dobbiamo eliminare. Prima di terminare questa brevissima introduzione, lasciare la parola alle amiche e compagne che sono intervenute qui, che intervengono questa sera con noi, vorrei ricordare una frase di Giuliana Tedeschi. Giuliana Tedeschi è una sopravvissuta, una donna straordinaria, una sopravvissuta dell'area di Auschwitz. Lei ha detto una frase molto importante, ha detto che le donne sono come macchie, se una si perde, si perdono tutte. Noi stasera proprio questo vogliamo fare, vogliamo cercare di recuperare alcune di queste mani in maniera tale che l'ordito si possa dipanare, diciamo così, in maniera tale da recuperare quelle voci che purtroppo sono state cancellate, si sono perse. Quindi io a questo punto cederei la parola alle compagne, magari la Carolina ci darà una piccola ci racconterà chi sono queste compagne. Io direi che possiamo cominciare a far parlare Graziella Bertozzo, che ci spiegherà come è nata l'idea di questa mostra. E insomma, lascio il microfono a Caterina, grazie. Allora, noi abbiamo avuto con grande piacere raccolto la possibilità di fare questa mostra qui e volevamo essere sicure che ognuna delle partecipanti avesse una presentazione adatta. Allora, ognuna di loro, noi le conosciamo per presa diretta, però abbiamo chiesto volutamente delle informazioni più specifiche perché ci tenevamo che ognuna di loro avesse la giusta presentazione. Quindi ho delle cose scritte, le leggo così come invece vanno date. Allora, Graziella è nata nel 54 ed è una proletaria di estrazione e convinzione. Passa l'adolescenza nell'Alto Vicentino e nel 68-69, insieme alle studentesse e agli studenti di Trento, incontra gli operai della Marzotto, dove abbattono la statua di Marzotto Maio, padre padrone. Si iscrive a medicina a Padova e qui partecipa al movimento del 77, rivendicando la sua partecipazione da cagna sciolta fino alla Tre Giorni bolognese contro la repressione, dove racconta di aver riconosciuto il suo lesbismo. Alla fine degli anni 70 si allontana da Padova e dal movimento e quindi si trasferisce a Verona ed entra a Radio Popolare, di cui sarà redattrice per alcuni anni. A metà degli anni 80 entra nel circolo Arci Gay di Verona e costruisce uno spazio per le lesbiche che poi porta anche a livello nazionale, con l'obiettivo sempre dichiarato di usare l'associazione Arci Gay per costruire la visibilità delle lesbiche. È un progetto a cui lavora per anni, diventando segretaria nazionale dell'associazione, lavorando ad un coordinamento nazionale delle donne dentro l'associazione che prima si chiamò Arci Gay Donna e poi dal 94 Arci Lesbica, lavorando moltissimo con i media. Alla fine del 94 abbandona la carica di segretaria nazionale di Arci Gay dopo essere stata sul palco del primo Pride nazionale, reputando di fatto questa esperienza come un progetto finito. Va a Firenze ed entra in Azione Gay e Lesbica e lavora a tante cose, ma in particolare è l'ideatrice, la progettista e la coordinatrice di Chi sono quella ragazza, quel ragazzo, progetto di prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza sulle e sugli adolescenti sulla base dell'orientamento sessuale, progetto finanziato per 2 anni di seguito dalla Commissione europea. È attiva nel movimento del Social Forum e all'interno di questo è una delle portavoce del Firenze Social Forum, mette su il collettivo 8 marzo, con il quale nel 2002 organizza il corteo Non è tempo di mimose, a pochi mesi dal Social Forum europeo, alla cui organizzazione contribuisce. È un attivista di Facciamo Breccia e collabora a Sulla Breccia dell'Onda, che è una trasmissione settimanale che va in onda su Radio Onda Rossa. Prego. Ho fatto sento che non ci sta. Beh, io innanzitutto vi ringrazio per l'invito e devo dire che mi fa particolarmente piacere, perché in tutto questo mio percorso cioè, ho sempre avuto particolari difficoltà comunque ad agire nei luoghi solo di donne, perché il mio percorso mi ha, non per scelta, cioè secondo me proprio perché sono una periferica dell'Italia, che già è la periferia, cioè, se volevo fare qualcosa io mi sono sempre ritrovata in contesti misti, e quindi credo che la mia mano sia stata una scelta di trovare a non essere una donna, una lesbica separatista, eccetera. Io ho fatto quel che ho trovato sostanzialmente e ho usato questi strumenti. Ovviamente io poi ci ho messo tutto il mio tempo a riconoscere il percorso femminista, perché non era il mio percorso, non per altro, perché ho percorso altre vie. Io credo che da subito di aver percepito, e credo di averlo anche sempre riconosciuto, che io non sarei esistita se non ci fosse stato il movimento separatista, per questo l'avevo sempre sostenuto, perché era quello che mi permetteva di esistere. Quindi io ho fatto altro, però è un po' strano da dire alla mia età, però con un riconoscimento davvero di aver avuto prima di me delle donne che in qualche modo mi hanno mandato delle cose. Mi gratifica molto quindi questo invito, perché è quasi come un riconoscimento, insomma, un riconoscimento reciproco, ecco, e questa credo che sia la cosa in assoluto che in tutto il mio percorso, nel bene e nel male, nel movimento, mi ha fatto in assoluto più piacere. Da che io sono entrata nel movimento specifico lesbico, anche se magari di manco ero percepita dentro il movimento lesbico, perché avevo questo strano coso che era l'arcigay, cioè, però ecco, a distanza di 20 anni credo che forse oggi mi si possa anche, cioè, comprendere oggi quello che magari non si poteva comprendere allora, che era questa che saltava fuori dal nulla, saltava fuori da questa scelta della classe operaria sostanzialmente. Quindi mi riallaccio a come è nata questa mostra. Questa mostra che con le compagne e compagni di Azione Gay Lesbica abbiamo realizzato esattamente un anno fa, in occasione del 25 aprile del 2008, quindi, per un'iniziativa che veniva organizzata a Verona dal Circolo Pink. Io ho vissuto 20 anni a Verona e quindi è la mia città. Verona è una città fascista. A Verona lo scorso anno c'era da poco il sindaco Tosi. A Verona il 25 aprile, precorrendo Berlusconi, l'anno scorso è stato officiato dal sindaco Tosi a Verona. A Verona il Circolo Pink da tanti anni, esattamente dal 96, organizza un'iniziativa alternativa del 25 aprile che consiste nel dare a portare dei fiori a triangolo rosa al monumento che c'è in Piazza Grande. L'anno scorso c'erano parecchie donne e uomini in piazza. Noi si organizzò questa mostra in collaborazione, il tutto era fatto dal Circolo Pink di Verona, il CSA che era il Centro Sociale della Chimica, perché successivamente furono sgomberati, il gruppo delle Fuoricampo di Bologna, le Mai State Zitte di Milano e Azione Gay Lesbica di Firenze. La scelta di andare da parte mia a mettere il cannocchiale o il microscopio o quello che si vuole sulla situazione delle donne, credo di avervela spiegata prima, cioè derivata dalla mia storia. Nel momento in cui si vuole uscire dalla banalità del 25 aprile, uscire dalla banalità significa riconoscere gli specifici. E da dove partire se non da quello che è il mio specifico? E quindi sicuramente questo specifico è derivato da lì. Molto, fra l'altro, credo in qualche maniera spinta da quello che era Verona, da quello che è Verona, da quello che è quella città. E la cosa che mi colpì di più di Verona relativamente al nazismo fu quando non tantissimi anni fa scoprì che a Verona, alla stazione di Porta Vescovo, si fermavano i treni di deportati, era uno dei punti. E mio nonno, che votava Saragat, socialista di Saragat, che è morto nel 79, nell'80, lavorava alla stazione di Porta Vescovo durante la guerra, perché lui sapeva il tedesco, perché prima era stato emigrante anche in Germania. Mio nonno non me l'ha mai detto. Eppure era socialista che votava Saragat, non era un fascista, era uno che andava fiero di non aver mai preso la tessera fascista, era uno che era un compagno di scuola del podestà, aveva costruito la sua casa da un attore che era lui. Ogni volta che tornava dalle sue varie migrazioni era stato in Africa, era stato in Germania appunto a lavorare, poi si costruiva la sua casa ovviamente abusiva. E il podestà, che era del paese, gliela aveva buttata giù perché era abusiva. E disse: io te la butto giù se tu fai la tessera. La tessera, buttami giù la casa e la tessera non la può. E questo era uno dei racconti frequenti di mio nonno, ma non mi disse mai di quello che succedeva alla stazione di Porta Vescovo. E io in quel momento ho odiato mio nonno. Cioè l'ho sentito colpevole e ho proprio capito come i tedeschi l'hanno fatto questi conti con la loro storia. Noi no. Io devo scoprire nel 1998, credo di averlo scoperto, cioè quando ero già venuta via da Verona, questa cosa, e mio nonno lavorava lì perché me lo raccontava mia mamma, che quando gli americani buttavano le bombe, lei guardava sempre, buttava in un paese loro, verso Verona, perché mio nonno era portavescovo per vedere se avevano bombardato là. Ma quello è il motivo per cui una settimana dopo questa mostra è morto Nicola Tomaselli a Verona. Cioè, e io mi ricordo quando una settimana dopo lo uccise a calci cinque ragazzini nazisti in una città che aveva reagito esattamente come aveva reagito mio nonno, nascondendo i morti, nascondendo le proprie colpe, nascondendo l'orrore, non facendo mai conti con quell'orrore. Noi siamo tornati dopo qualche mese a Verona, tra l'altro con uno spettacolo che si intitola Verona Caput Tafi, che fa riferimento a un'altra storia di Verona, ma non li voglio dilungare perché Verona appunto è una città fascista, e il clima è quello, e va via via peggiorando. Però oggi quel clima è in tutta Italia. Rispetto a un anno fa, se un anno fa aveva senso fare questa mostra a Verona, oggi ha senso tale Italia. Un anno fa a Verona il gran sacerdote è stato Tosi, domani in Italia il gran sacerdote sarà Berlusconi. E poi però mi sento di dire anche un'altra cosa. Quello che ho provato e che provo nel farla, perché credo, e mi fa particolarmente piacere condividerlo con delle donne, perché io ogni volta in cui presento questa mostra cerco di condividere con chi c'è quello che ho provato, perché credo che sia dura vedere quella mostra. E quindi credo che ci sia poi bisogno di rielaborare, io ho avuto questo bisogno quantomeno, ed è diverso ovviamente condividerlo con il fatto che so che qua ci sono solo donne, perché credo sia un valore in più sostanzialmente, cioè un valore in più di rispetto e di riconoscimento di quello che è accaduto. Uno dei problemi che mi sono fatta fin da subito, già quando la mettevo le foto, le sceglievo eccetera, era se creare una censura non tanto contro l'orrore quanto relativamente al pudore di quelle donne, perché lo specifico delle donne, uno degli specifici di sofferenza in quegli anni poi deriva proprio da qui, cioè da un senso del pudore diverso per le donne e non per gli uomini, e l'opprobrio contro questo pudore è una delle violenze più grosse che hanno subito quelle donne, e non volevo mettermici anch'io, e avevo paura che esporre queste cose fosse un sovrappiù di violenza, e anch'io mi ci mettevo. E poi ho cercato di far, non ho voluto essere come mio nonno, ecco, sostanzialmente. Ho detto no, non posso fare la stessa operazione, non posso nascondere l'orrore pensando che non esista. E allora io lo posso fare, però se anch'io sono quelle donne. Cioè, in qualche modo mi è successo come dentro, io non lo so, ora me l'ha detto prima Rosina, che ha detto ma questa è quella che fa più impressione, il pannello 3, dove ci sono, c'è il gruppo di donne spogliate, fatte correre sulla neve, fotografate dal nazista che le ha ammazzate, quello è l'orrore più grosso, che ci ricorda molto oggi, ci ricorda molto le trans della Prenestina fotografate lo scorso anno. Ecco, lui era un grande innovatore, questo nazista, con il suo uso di media, con l'uso della gogna, e la gogna già compare nelle prime foto, tutte cose che vediamo anche oggi, no? La gogna, cioè proprio l'uso, tra l'altro, cioè io ti rubo anche la tua immagine, ti faccio diventare altro, ti vendo il tuo dolore, ecco. C'era già questa componente. Ecco, quella per me è la sequenza di foto che mi ha ferito di più. Cioè, e dico che mi ha ferito. E quindi, cioè, o io sono loro e rispetto a questo lo dico, e se offendono loro, so che offendono anche me, perché ho provato quel dolore, questa cosa lo ritrovo come dentro, non lo so se le nostre cellule abbiano un ricordo di genere, probabilmente sì, perché o magari no, questa è una fantasia, però lo ritrovo in questo, capito? Che è un percorso di genere dove tu sei sempre stata controllata attraverso questa paura che ti venga fatto questo. Perché poi questi sono i nostri incubi sostanzialmente, è quell'incubo di quella sequenza di foto, o quantomeno il mio incubo. Diversi sono poi i corpi, le carni macerate delle sopravvissute. Cioè è un altro tipo di dolore, però in qualche modo a me mi ha ferito di più la prima parte, e forse è perché è quella che è più simile al giorno d'oggi, forse perché è quello che io come lesbica ho subito quando avevo 12-13 anni, 14. Era lo stesso tipo di violenza che ci stava dietro, e questo non è per paragonare quello, perché non ha paragone ovviamente. Ho cercato di fare corso in tutta la mia storia di sofferenza, per quanto minore di quella, per cercare di sentire quella, ed è quello che inviterei a fare anche voi di fronte a queste, cioè perché è vero che apparentemente ti distrugge questo. Però oggi è l'unica cosa che ti può dare una rabbia sufficiente per starcela, perché l'operazione stanno facendo è quella di mio nonno, di nascondere, perché è solo nascondendo che noi non ritroviamo la rabbia. A me mi ha dato tantissima rabbia quella cosa, forse quella rabbia mi ha permesso di sopravvivere poi alle mie vicende durante il Pride, non è poi così. Cioè tu devi avere rabbia dentro di fronte all'ingiustizia, devi essere tu la vittima. Tu devi essere quella, se no non ce la fai. Cioè, e questo è il motivo e la cosa che può dare, l'unica cosa che può dare un senso a quello che hanno passato quelle donne. E io sono convinta che loro lo vorrebbero un riscatto. E infatti la mostra finisce con quelle quattro donne a Minsk nel 1944 e hanno un fucile in mano, perché quel fucile degli uomini, quelle donne l'hanno preso in mano e in qualche modo hanno rivendicato il loro genere, perché sono quattro donne. Cioè, ogni tanto le vediamo, no? Anche altre foto delle partigiane, cioè è perché sono le partigiane, stavano assieme, ok, erano separatiste, partigiane ora, però come mai quando vediamo delle foto di donne che hanno fatto la resistenza eccetera, questa rabbia che mi permetteva di resistere in qualche modo la ritrovavano nell'agire fra donne. Cioè, ce ne sono anche altri foto in giro. Ora, io ho messo quella, mi era piaciuta particolarmente, ma ci sono altre foto della liberazione, il 25 aprile. Non entrano uomini e donne, le donne entrano con le donne. E quindi, questo se non altro è la prova che c'era uno specifico, perché altrimenti non ci sarebbe stato questo bisogno. Ecco, il titolo della mostra, poi concludo. L'SS ci guardavano, per loro eravamo come degli scarafaggi, e secondo me qua c'è un motivo perché le donne hanno dovuto sopportare questa sofferenza. Rendere scarafaggi gli uomini e le donne era renderli insetti. Gli scarafaggi sono proprio un'altra, non un'altra razza, un'altra, cioè è proprio la cosa che tu odi per il solo fatto che siano scarafaggi. Il scarafaggio stia proprio nel punto d'osservazione, cioè la rana d'inverno vista da parte di chi era rana d'inverno. Lo scarafaggio è quello che ti vedevano loro, perché era vero. Ed è proprio da lì che io proprio ho avuto l'immagine, no, di come dovevano essere vissute e tenute queste donne, lo schifo. Loro erano le scarafaggio femmina, quelle che avrebbero riprodotto la razza degenerata, sostanzialmente, quindi proprio questo odio ideologico fortissimo, ed è da lì dall'insieme del percorso, che tra l'altro la mostra fa temporale, dall'inizio degli anni 30, il meccanismo della gogna, cioè meccanismi abbastanza simili a quelli attuali, all'orrore dei campi, agli esperimenti con cui terminano, cioè proprio tu vedi lo stupro, cioè è lo stesso identico meccanismo dello stupro, ed è uno stupro di massa in qualche modo, perché ed è proprio uno stupro derivato dal fatto che devi annullare te donna che non riproduci la razza eletta che sono io uomo, tu riproduci l'essere interiore, per cui cioè, per proprio, c'è dentro tutto, c'è proprio la commistione tra il macismo, il razzismo, cioè proprio ti vedi circondato da tutto questo, il sessismo, tutte queste cose trovano, proprio ti accorgi che sono la medesima cosa, ma sono la medesima cosa sul corpo della donna, cioè è come se fosse la chiave di lettura di tutto il resto, quel corpo della donna e ancora di più quello che c'è dentro il corpo della donna, perché ci sono donne che sono sopravvissute a questo, quindi evidentemente c'è qualcosa di più forte, forse la rabbia che ti deriva dall'averlo vissuto fino in fondo. E io credo che nel 2009 forse la miglior maniera per festeggiare il 25 aprile sia proprio vivercela questa sofferenza, cioè saperla, conoscerla fino in fondo e per continuare ad andare avanti e capire che ha un senso il nostro agire, che ha un senso storico, che ha un senso generazionale, che ha un senso, non importa se anche abbiamo cioè, l'impressione che non ci si esca, da quei campi, come faceva una a pensare che forse ne usciva? Noi siamo in una specie di enorme campo di concentramento mediatico oggi, subiamo pressoché quotidianamente degli stupri di massa anche oggi, che chiamiamo magari femminicidio, ma che in questo senso davvero è la mia vita. Cioè, questa mostra, non è la nostra vita, la vita è l'estremo, l'estrema conseguenza del portato di sessismo nel mondo che c'è ora. Quella è l'estrema conseguenza, quello è dove si può andare ad arrivare a parare, quello è quello da fermare oggi, tra l'altro, cercando degli strumenti, ma gli strumenti ce lo indicano quelle partigiane che sono uscite vincitrici, cioè l'essere insieme. Thank you.

fa e ci continua a fare per essere qui oggi con noi. Voglio dire un'ultima cosa su Mirella. Mirella entra il 7 ottobre del 44 come politica, come prigioniera politica a Ravensbrück e ne è uscita nella fine del 45. Aveva 17 anni, era una bambina, poco più di una bambina, e è entrata con sua madre, tutte e due politiche. La storia dei campi di sterminio, dei campi di concentramento è costellata di donne che sono entrate, non solo le ebree sono entrate molte donne nei campi di concentramento perché non corrispondevano ai dettami del governo fascista o ai comportamenti stabiliti per le donne dal nazismo. E c'erano quindi le politiche che avevano il triangolo rosso, oppure c'erano le cosiddette asociali, le comuni, con il triangolo nero, e tra di loro, tra le comuni, c'erano le lesbiche, per esempio, perché in realtà nessun regime ha mai perseguitato le lesbiche, ma non per bontà, ma perché non le riconosceva proprio, e quindi era rilevante, le donne lesbiche potevano essere stuprate, quindi comunque servire al regime ugualmente. È tanto più importante parlare di Ravensbrück perché appunto non è conosciuta a sufficienza. E poi dopo magari dirò un'altra cosa sulla giornata del 25 aprile, ma vorrei concludere questa breve introduzione, scusate, con una poesia di Maria Puntuoro, che è un'altra donna sopravvissuta a Ravensbrück. Si intitola Dimenticare. Dimenticare. Se perdono vuol dire non desiderare neppure per un attimo che i nostri crimini ricadano sui figli innocenti. In questo senso noi perdoniamo. Se perdono vuol dire non ammettere neppure che dobbiamo soffrire lungamente l'agonia sinché la morte divenga liberazione. In questo senso noi perdoniamo. Se perdono vuol dire sperare che anche per voi sorga il giorno perché nella ritrovata matrice in voi rinasca il fratello ucciso. In questo senso noi perdoniamo. Ma se perdono vuol dire disperdere la memoria, come al vento la cenere dei morti, chiudere gli occhi, orecchi, impedire al cervello di pensare mentre voi sognate altri massacri, altri bagni di sangue, altri roghi. Ebbene, cercate altrove i vostri complici e i vostri servi, finché avremo un respiro, un atomo di forza, un lampo di pensiero, li useremo contro di voi, finché quel ventre non sarà sterilito. Dopo, soltanto dopo, potremo dimenticare. E adesso la parola a Mirella e Antonella. Grazie. Questo è aperto. Vabbè, mi sembra. Sentite? Voglio iniziare questo mio intervento dandovi alcuni cenni storici riguardanti il campo di concentramento di Ravensbrück, dove sono stata deportata a seguito del mio arresto da parte delle SS tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ravensbrück, letteralmente Ponte dei Corvi, a circa 80 km a nord di Berlino, era situata in una zona paludosa verso la Polonia, sulla riva sud del lago Scheldt, a 4 km circa dalla cittadina di Fürstenberg, nella piana del Magdeburgo. Inizialmente doveva essere un campo di educazione, dico educazione tra virgolette, prevalentemente femminile. Divenne in seguito un vero e proprio campo di sterminio. Fu aperto il 15 maggio del 1939 e vi furono immatricolate 130.000 donne, di cui 95.000 trovarono la morte. La presenza media nel campo era di circa 45.000 stuck, cioè pezzi, così ci chiamavano. e si calcola che siano nati 870 bambini. Le prigioniere tedesche erano in gran parte comuniste, socialdemocratiche, testimoni di Geova, delinquenti comuni, zingari, omosessuali, con i loro bambini. In seguito giunsero contingenti dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Francia, dall'Italia, dal Belgio, cioè da tutti i paesi invasi dalle truppe tedesche. Questo era il campo dove io fui rinchiusa. E ora voglio dire che in questi ultimi tempi si parla molto di deportazione. Rispetto alla fine della guerra, questi avvenimenti oggi si ricordano molto di più. Al nostro rientro dall'Aula, infatti, e parlo per esperienza personale, la volontà di non conoscere la realtà concentrazionaria nazista fu pressoché totale. La guerra era finita e si diceva basta con le sofferenze. Per il deportato però non è stato così semplice. Il lager segna in modo indelebile e in lui è rimasto qualcosa che niente può cancellare. Inoltre, per le donne deportate, la deportazione e il ritorno hanno assunto una connotazione particolare. Hanno fatto sorgere un sospetto di evidente equivoco significato. Ecco perché la maggioranza di noi ha deciso per lunghi anni di non parlare. La sofferenza aveva con quel contesto un senso, l'offesa conseguente al sospetto no. Dopo tanti anni però la mancanza di riuscire a far capire nei limiti del possibile quel vissuto ci esorta a parlare, a raccontare in che modo il deportato non era più padrone del proprio destino. Però parlare oggi, e non soltanto oggi, ma anche allora, dell'universo concentrazionario nazista e soprattutto far capire a chi ci ascolta quello che il deportato ha dovuto subire fisicamente e psicologicamente non è facile. È impossibile rendere efficacemente quel vissuto, almeno io non ne sono capace, anche perché ad ostacolarci nella narrazione interviene la memoria, operando lei stessa una forma di selezione. Selezione che tende a conservare, a scartare, a dimenticare, o subito o poco a poco. E quindi a chi ci ascolta la nostra testimonianza può sembrare non chiara, può sembrare monca. Io stessa, come ex deportata politica in un campo di sterminio, mi sono accorta all'improvviso di avere dei vuoti di memoria, vuoti che non riesco a colmare, e vuoti riguardanti particolarmente sulla vita quotidiana dell'Ager. Allora cerco di indagare, di chiedere a qualche compagna di sventura di aiutarmi a ricordare, non pensando che aver rimosso quello o quel particolare forse per me è un bene. Questa ricerca non deriva da una curiosità morbosa, no, non è questo. So, e questo lo ricordo molto bene, quali erano le ferree regole del campo. Questa ricerca, legata a particolari di quel vissuto, risponde a un altro tipo di esigenza. Capire, infatti, come un individuo riesca, in certe circostanze, a non ritenere più importante, non necessario, futile, quello che normalmente ritiene indispensabile, direi vitale. Non c'è ricambio di bancheria intima? Per mesi e mesi deve indossare la stessa senza poterla lavare? Non ricordo di aver avvertito nel tempo un più che logico e dignitoso disagio, e non ricordo di aver sentito qualche compagna lamentarsi di questo. Si vive e si continua a vivere nonostante l'opera di disumanizzazione perpetrata nei nostri confronti. Innanzitutto eravamo meno che umani, una sottile perdita tecnica veniva messa in pratica nei nostri confronti, subito, durante il trasporto verso il lago. Trasporto in carro bestiame sigillato insieme a una sessantina di compagne, durato 4 giorni e 4 notti. Mi ha fatto ripiangere la prigione dove mi avevano rinchiuso a seguito del mio arresto. Non avevamo né acqua né cibo. Non avevamo neanche il buglioro, tanto odiato in carcere, ma così necessario per i nostri bisogni fisiologici. Questa forma di violenza, perché di violenza si trattava, aveva lo scopo di rafforzare con la nostra sofferenza la loro superiorità. Dovevamo capire fin dai primi giorni che non ci dovevamo più considerare persone, ma esseri pronti ad obbedire anche ad ordini futili e tessuti. Dovevamo supinamente subire, senza alcuna apparente giustificazione, l'umiliazione di esporre di fronte ai soldati la nudità del nostro corpo, violando fortemente il nostro pudore e la nostra educazione. Dovevamo sottoporci a traumatizzanti e antigeniche visite ginecologiche senza capirne il motivo. Forse è stato a seguito di una di queste visite che il nostro flusso mestruale cessò improvvisamente per tutto il periodo della detenzione. Dovevamo ogni giorno sottoporci a quella forma di tortura, non tortura, che si concretizzava nel cosiddetto appello. Alle 4 del mattino e alle 18 della sera, prima e dopo il lavoro, sotto la pioggia, la neve, i venti, sull'attenti per ore, senza poter parlare, senza poter fare alcun movimento. Dopo un po' la schiena fa male, i piedi completamente gelati non si sentono più, e tu ti domandi, ad ogni minuto che passa, riuscirò a resistere e non cadere per terra? Cadere comportava una grave infrazione alle regole e quindi una conseguente, adeguata e esemplare punizione. Sono stata arrestata dalle SS tedesche insieme a mia madre nella mia casa alla Svezia. La mia era una famiglia antifascista e mio fratello faceva parte del movimento partigiano. Motivo più che valido per la logica nazista per considerare nemico tutto il nucleo familiare. Dopo la detenzione nelle carceri della Spezia e di Genova, sono stata portata al campo di smistamento di Bolzano in attesa dell'ultimo trasferimento che mi condurrà a Ravensbrück. Al nostro arrivo il lager si presenta grigio, tetro. Vediamo le mura e il filo spinato. Le torrette di controllo sono presidiate da guardie armate. Soldati e cani lucidi ci circondano e il silenzio è rotto da comandi secchi e rabbiosi. Vediamo sulla piazza del lager donne in colonna, sono le deportate che ci hanno preceduto. Non sembrano donne. Sono madri, sembrano affaticate, sono visibilmente sporche e molti hanno i capelli da parte zero. Indossano una divisa riga, ai piedi hanno i zoccoli. Tutte hanno un numero e un triangolo colorato ben visibile che li qualifica. Il mio numero sarà il 77.415 e il mio triangolo come deportata politica sarà rosso. Non avrò quindi più un nome, sarà solo un numero. Numero che dovrò imparare più presto a pronunciarne in tedesco, anche se non conosco questa lingua, per evitare di essere punita. L'ingresso nel mondo dell'agro, scandito da un ritmo sempre uguale e costante, anche per il nostro gruppo, si concretizzerà nella visita ginecologica per la ricerca di oro, nella rasatura di capelli che molti di noi subiranno, nella doccia, nella vestizione e sezione. Non si sente? Le divise però non saranno sufficienti per tutte. Suppliranno a questo distribuendo vecchi vestiti già appartenuti alle deportate che ci hanno preceduto. Non importa se questi vestiti avranno misure non appropriate alla nostra persona, non importa se saranno di seta e quindi inadeguate al freddo del nord, come nel mio caso, importa solo che sul dorso sia disegnata una grossa croce, simbolo della detenzione. Non esiste nessuna logica a tutto questo, se non quella che, rendendoci ridicole, spersonalizzandoci, avremo fatto il primo passo verso l'annientamento psicologico. Il mio primo lavoro si svolge all'aperto. E per ore e ore devo passare una pala a colma di sabbia alla mia vicina, che a sua volta la passerà a quella che è accanto, con il risultato che la sabbia tornerà al punto di partenza. Questo lavoro, inutile, ha solo lo scopo di renderci docili e disponibili a qualsiasi tipo di attività. Il lavoro produttivo per loro arriverà in seguito. L'industria tedesca ha bisogno di manodopera e gli importati, anche se fisicamente stremati dalla fame, dal freddo, anche se annientati psicologicamente nella loro nudità, serviranno allo scopo. Poco importa se non vivranno a lungo. Qualcosa possono fare lo stesso per aiutare la macchina bellica ad un costo minimo per l'industria tedesca. Io, per mia fortuna, sarò trasferita a uno dei sottocampi di Ravensbrück, dove dovrò lavorare per la Siemens. 12 ore di giorno, alternate a 12 ore di notte. Ho detto per mia fortuna perché il mio lavoro si svolgerà in blocco e quindi avrò meno freddo e sarò al riparo dalla pioggia, dal vento, dalla neve. In quel momento e in quelle condizioni era il massimo che si potesse avere. La detenzione per noi italiani è stata al nostro arrivo al campo particolarmente dolorosa a seguito della palese ostilità riservatici dalla maggioranza delle detenute francesi, polacche, russe, tedesche. Ci consideravano fasciste e traditrici, senza pensare che se eravamo state deportate era per loro stessi motivi. Solo dopo lunghi mesi questo atteggiamento cominciò a mutare. Per tedeschi invece eravamo le sporche donne di Badoglio, cioè le traditrici. Non è stato facile in questa situazione trovare la forza di sopportare giorno per giorno una così grande sofferenza. E nello stesso tempo non abbandonare mai la speranza del ritorno a casa. Solo questa speranza ha fatto sì che si riuscisse a sopravvivere, sopravvivere per poter ritornare e testimoniare a quali aberrazioni può portare una dittatura. E per concludere voglio dire che tutto quanto è accaduto nei lager è stata la conseguenza, e non altro, di precisi orientamenti e di precise decisioni dei governanti nazisti, senza dimenticare l'indifferenza e la passività di parte della popolazione tedesca che ha scelto di restare nell'ignoranza fino a quando è stato possibile. Ed ora vorrei ricordarvi quanto scrisse Martin Niemöller, pastore evangelico deportato a Dachau. Forse la maggior parte di voi lo conosce, però mi fa piacere leggere. Prima vennero gli ebrei e io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero i comunisti e io non dissi nulla perché non ero comunista. Poi vennero i sindacalisti e io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi vennero per me e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa. Grazie.